Camerata. Sanctus, Sanctus Dominus. Benvenuti. Benvenuti a un'altra puntata di Testa o Croce, puntata numero 20. Ancora un'altra, incredibile. Lo so, non ne possiamo più, veramente. Veramente, poi, se poi è arrivata la primavera, si vuole andare in giro, sì, fare le vite. Cari amici di Radio Cage, cari amiche, abbiamo un ospite, l'abbiamo già annunciato in vari canali, Stefano Alessi del Lobo, d'Ordine dei Bardi, Ovati e Druidi. Buonasera. E starà con noi tutta la puntata e sì, ci presenterà la sua attività, l'attività del suo gruppo e poi insomma avremo come al solito le nostre rubriche, sì, il nuovo concorso esistenziale, sì, e poi notizie, news, segnalazioni. Assolutamente sì. Intanto partiamo con sì, i nostri contatti. E annunciamo tra l'altro che ci sono due nuovi podcast, giusto, sul blog? Sì, il numero 16 e il numero 17. Benissimo, se non sbaglio. Il nostro blog è testaocroceshow.blogspot.com. Invece per comunicare con noi abbiamo un indirizzo email testaocroceshow@gmail.com e lo Skype testaocroceshow, l'account con cui potete chattare con noi in diretta. Diciamo ai nostri ascoltatori esattamente, perché molti mi chiedono come si fa a ascoltare i vostri podcast. Veramente, pensavo fosse molto semplice. Allora dunque, andate sul nostro blog testaocroceshow.blogspot.com e in basso trovate una barra con scritto clicca qui per ascoltare i podcast, che evidentemente non è così intuitivo, e lì una volta cliccato si apre un player integrato e poi funziona come i classici, con il triangolino per premere play e poi scegliete dalla playlist le puntate che volete. Uno dei tasti sulla destra, cliccandolo si apre la playlist con tutti i titoli delle puntate, giusto? Sì, esatto. E non ci sono ancora sul sito di Radio Cage, quindi non cercateli lì perché ancora non sono presenti. No. E salutiamo Jacopo che si è connesso su Skype in questo momento. Ciao Jacopo. Ciao Jacopo, uno dei nostri ascoltatori storici. Sì, più affezionati, assolutamente. Bene, direi di passare velocemente all'almanacco. All'almanacco di Radio Cage, sì, che come ormai i nostri ascoltatori sanno ha un jingle che è la chanson baladée del Guillaume de Machin, ma è più noto come la sigla dell'almanacco del giorno dopo della Rai, se non sbaglio. Ma non parte? Sì, certo che parte. Sento in diffusione, sta per arrivare. Lo sì, sento, eccolo. Spirito, eccolo. Dal mondo dello spirito ci ritorna l'eco di Guillaume de Machaut. Va bene, allora oggi è il 29 marzo, si celebrano i santi Armogasto, Archinimo e Saturnino, Sant'Eustachio di Napoli, Santa Gladys, San Guglielmo Tempier, San Guinliv, che è uno di quei nomi si pronuncia un po' come Cthulhu, esatto, sì. San Ludolfo di Ratzeburg, San Marco di Aretusa, Santi Pastore, Vittorino e compagni, Santi Simplicio e Costantino. Bene, auguri a tutti gli omonimi, come sempre. Soprattutto a Guinliv. Sì, non saprei scriverlo, però. E celebriamo, eccezionalmente, a meno che tu non mi smentisca, non ho alcuna celebrazione di scomparse in questo giorno, in questo 29 marzo. No, io non. E quindi passiamo a celebrare la nascita, esatto, di qualcuno. Esatto. Allora, intanto nel 1561 nasceva Santorio Sanctorius, meglio noto come Santorio Santorio, perché alla fine era italiano, triestino, che era uno scienziato che fu bruciato come eretico dall'Inquisizione. Fu un pioniere nell'impiego delle misurazioni fisiche in medicina. Il suo dispositivo più famoso fu una grande bilancia usata per studiare le trasformazioni metaboliche in soggetti sperimentali, tra i quali vi fu anche Galileo, pensate un po'. Fu seguace del metodo sperimentale, di cui comprese del tutto l'importanza e la necessità anche per le discipline biologiche. Considerato il fondatore della iatromeccanica, fu autore di importanti studi sul metabolismo e sulla termoregolazione umana, dimostrando l'esistenza della perspiratio insensibilis e introducendo in medicina l'uso del termometro clinico che ideò, pensate un po', nel 1561. Addirittura. E fu bruciato come eretico, ovviamente. Teneva anche una rubrica di informazione anno zero, vero? Mi sembra. forse un parente. Poi ce ne sono altri. Sì, poi ricordiamo la nascita di... nel 41 di Terence Hill, è ancora vivente, vi facciamo gli auguri. Auguri, attore, a vabbè, notissimo qua in, sì, Italia, di cui penso parleranno anche gli amici di Arena Top Again questa sera. Penso di sì. E poi ricordiamo nel compleanno di Christopher Lambert, attore noto per Highlander ad esempio, Elle Macpherson, la modella, Lucy Lawless, Xena, perché okay, conosce la serie TV. Poi ricordiamo anche la settima edizione dei Raspberry Awards, i premi del cinema, quelli al negativo, in cui vinse a pari merito Howard the Duck, Howard il papero venuto dallo spazio, e Under the Cherry Moon, il film con Prince. E poi ci sono due compleanni fittizi di due personaggi di Star Trek, Beverly Crusher e Deanna Troi, perché c'è questa usanza di mettere compleanni. Beh, ma mi sembra giusto comunque, sì, perché sono nel cuore di tanti, no, di tanti spettatori, sì. Quindi. E poi non altro che mi riservo per lanciare il primo pezzo della giornata. Ma sai che anch'io ho un pezzo relativo a uno di questi compleanni, comunque non lo svelo. E poi auguri anche a Paolo Abinetti, Vangelis, o insomma come lo si vuole pronunciare. Eccolo, era lui, ecco, perfetto. Fabrizio Corona, Elena Sofia Ricci e Attila Xihar, insomma è un nome ungherese. L'unno. Sì, è un nome ungherese, perché sì, è il cantante dei Mayhem e dei Tormenta. Ah, non è Attila... Non è quello. Non è Abatantuono, ok. Bene, appunto, allora, quindi partiamo... andiamo appunto al compleanno di Vangelis, cioè Evangelos Odisseas Papatanassiou, che è un grande compositore anche di colonne sonore, e noi ci andiamo ad ascoltare la colonna sonora di Blade Runner. Questo, per la precisione, è il pezzo conclusivo, nei titoli di coda. Bene, rieccoci qua. Rieccoci. Dopo questa struggente colonna sonora. Ma veramente, sì. Una cavalcata cosmica che mi riporta Jean-Michel Jarre a tutti gli artisti della Cosmische Musik, no? Sì. Filone europeo molto importante. Ricordiamo fra l'altro anche Vangelis per la colonna sonora del film Momenti di Gloria, che viene utilizzata come sigla di quasi tutti i momenti sportivi a rallenti. E non proprio, solo sportivi. Non solo sportivi, fra l'altro. Quando ci sia un'emozione forte. esatto. Ma passiamo a qualche notizia. Anzi, una notizia rapida e molto, molto recente, no? Che riguarda il nostro Pope. Caro amato Papa Ratzinger è stato in visita nei giorni scorsi in Messico e a Cuba. E vabbè, quello che insomma in sostanza è andato lì a parlare, come fa sempre il Papa, no? Sì. Che sostanzialmente parla a fumare qualche sigaro, ma non credo. No. Comunque ha incontrato Fidel Castro e Fidel gli ha detto che desiderava molto due beatificazioni: quella di Madre Teresa, benefattrice di Cuba, non lo sapevo, no, e quella neanche. Di Giovanni Paolo II. Quindi non è Madre Teresa di Calcutta, ma Teresa. Se qualcuno lo sa, ecco, Jacopo, secondo me lo sa. Se, sì, se lo sa, Jacopo, scrivici. L'ex capo di Stato ha interrogato il Papa sulle difficoltà che attraversa l'umanità, compreso il ruolo della scienza e delle religioni, sulla liturgia cattolica e su cosa fa un Papa, cosa su cui siamo curiosi anche noi. Nell'incontro c'è stato spazio anche per qualche battuta sull'età che avanza. L'ex capo di Stato cubano, 85 anni, Benedetto XVI, 84. Il Santo Padre ha detto, ha risposto... a Batte 1-0 Benedetto, quindi esatto. Fidel. Però il Santo Padre ha risposto, sì, sono anziano, ma posso ancora fare il mio dovere. Ecco. E poi ha detto anche che il marxismo non corrisponde più a realtà. E c'è stato un giornalista di un sito americano, Kyle Murphy, che del Freewood Post, che ha titolato con grande sagacia «Il marxismo non corrisponde più a realtà», afferma un uomo con un enorme cappello che parla con esseri invisibili nelle nuvole. Fantastico, secondo me un genio. Beh, sì, è decisamente una bella immagine proprio. Sì. Bene, direi che ora passiamo a parlare del tema della giornata, che non è proprio una novità assoluta, perché comunque è una cosa di tradizione molto antica. La tradizione è sicuramente antica, ma l'Obod è molto recente, quindi, esatto. Quindi abbiamo qui Stefano Alessi. Buonasera a tutti. Che adesso appunto ci spiegherà qual è il suo ruolo, insomma, e cos'è l'Obod, che è l'ordine che rappresenta, ordine dei bardi, ovati e druidi. È molto giovane Stefano, noi ci aspettavamo mago Merlino, insomma, invece è praticamente quasi il nostro coetaneo, no? Sì. Ma comunque non ci dispiace, no, bene, no, puoi presentarti. Allora, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto parlando di Obod, L'Obod è l'ordine dei bardi, ovati e druidi inglese, un ordine molto antico che proviene da un ulteriore antico ordine di cui adesso sono stato riformato. Noi in Italia in questo momento abbiamo abbracciato l'Obod come ordine druidico italiano, o il Bosco dell'Awen, e abbiamo cercato di riportare nel nostro territorio questa realtà inglese, che ovviamente è famosa, diciamo, in tutto il mondo, conta più di 8.000 membri che ne fanno parte, di portarla anche in Italia per riscoprire, diciamo, quelli che sono i valori legati alle tradizioni celtiche, druidiche, presenti anche nel nostro territorio, non solo nei territori europei. Sì, ecco, leggo che l'ordine fu fondato nel 1964 da, sì, Ross Nichols. Sì. Bene, sì. E da un gruppo di membri, sì, dell'antico ordine dei druidi, inclusa la scrittrice Vera Chapman. Sì. Ecco, esattamente, appunto, cos'è l'ordine dei bardi, ovati e druidi? Allora, ovviamente, come si è detto, è un ordine. È un ordine, ma questo significa che è un ordine religioso? Allora, qui bisogna fare un po' di distinzioni. Allora, c'è il druidismo, fondamentalmente, allora, è un termine, diciamo, ad ombrello, nel senso può contenere tantissime cose. E come ogni membro, come ogni persona vive il druidismo, è molto personale. C'è chi lo definisce una filosofia di vita, chi una spiritualità, chi una religione. Personalmente non vedo molto inquadrato nel termine magari di religione, in quanto innanzitutto il potere non si accentra su nessuno, non ci sono divinità da adorare, non c'è un culto verso una determinata divinità imposto o dogmi, diciamo se si deve parlare di spiritualità legata molto al libero sentire di ogni membro, di ogni persona, che è libero di percepire e vivere personalmente la propria spiritualità. Ecco, questo infatti ce lo ricordava anche Maurizio Pucci, sì, del Conciliabolo Celtico Toscano, sì, che questi aspetti, carissimo, che hai ricordato anche tu, sì, che sono valori fondamentali della pratica. Quindi individualismo, no? Però individualismo che, cioè, non penso che si traduca in una completa arbitrarietà, no? Cioè, il druidismo è diverso da, non so, da altri tipi di ricostruzionismo pagano, no? E quali sono, diciamo, gli elementi che lo distinguono? Salienti della tradizione, sì. Allora, io credo che il filo conduttore di ogni spiritualità, come il druidismo, che è una spiritualità legata alla terra, fondamentalmente, il filo comune di ogni tradizione spirituale, chiamiamola come vogliamo, sia il medesimo. Poi, ovviamente, in base alle popolazioni dove è stata vissuta, dove è emersa fuori, si differenzia magari in pratiche o credenze legate strettamente però al territorio in cui è emerso. Aspetti fondamentali del druidismo sono, appunto, va bene, l'individualità della persona, la sua personale connessione con l'ambiente esterno, inteso prima di tutto come natura, ciclicità del tempo, e poi anche nel rapporto con la comunità di persone. Quindi si parla, sì, di uno sviluppo interiore personale, però poi questo sviluppo deve essere fine a relazionarsi fuori con il resto del mondo, con il proprio gruppo di persone o con la propria comunità. Ecco, a questo proposito, infatti voi non chiedete affatto di abiurare o comunque rinnegare i culti a cui appartengono le persone, cioè siete aperti a qualunque altra fede, sì, proprio perché non c'è un aspetto religioso. Perfetto. Quindi si possono sposare tranquillamente a fedi diverse. La pratica druidica o l'addestramento druidico, come vogliamo chiamarlo, non impone, appunto, dogmi o di abbandonare una credenza personale, semmai cerca di creare un ponte. Cioè, il druidismo io lo percepisco come un ponte tra tantissime realtà che cerca di trovare i punti di comunione e di legame anziché separare e allontanare. Il druidismo, per far parte dell'ordine, non c'è discriminazioni razziali, sessuali o di orientamenti religiosi, assolutamente. Quindi è molto aperto. Sì. A qualsiasi tipo. Ho letto che c'è una maggioranza di, diciamo, di femmine, insomma, no? Di donne tra gli iscritti. Allora, diciamo che fino a poco tempo fa il druidismo a livello storico era prettamente, diciamo, Robby, dovremmo addentrarci in un contesto storico legato anche un po' alla massoneria. All'inizio era molto classista, quindi molto legato alle figure maschili. Poi oggigiorno invece... Cioè, all'inizio ti riferisci all'ordine, quello settecentesco? Sì, oppure... probabilmente sì. quando si è iniziato a parlare di neodruidismo, sì, il revival sì, sì. Okay, del druidismo, l'influenza è stata molto predominantemente maschile. Poi come accade spesso, ovviamente. Insomma. Basta ad esempio ricordare, ad esempio, le figure cardine dell'ordine inglese, inizialmente erano solo tre e successivamente, diciamo, da qualche anno è stata inserita una quarta figura che è la madre, proprio rappresentata da una donna, in questo momento è Thea Worthington e rappresenta la Modron, per porre l'attenzione anche a questi punti sul valore del femminile che deve essere presente nella pratica druidica. Anche perché la terra, la natura viene identificata storicamente come una madre terra. Ma una donna può diventare, per esempio, bardo? Poi certo. dopo spiegheremo come, sì. Più avanti nella trasmissione. Sì, tranquillamente. Ah, ottimo. Ecco, direi di fare appunto una pausa musicale e poi benissimo. Proseguiamo dopo. D'accordo. E allora. Poi ci spiegherai appunto la differenza anche fra queste tre categorie, queste tre insomma, categorie, bardo, druido e ovate. Allora ci ascoltiamo dei Follow That Camel, Westering Home. Bel nome. Bentornati. Segui quel cammello con Westering Home. Pezzo fantastico, secondo me. Quei bassi che vanno a ripescare la corona musa. Sì, sì, molto di atmosfera anche. Andiamo con una notizia flash. Allora, da Fox News. Dunque, il New York Times è stato accusato di avere due pesi, due misure in tema di religione dopo aver pubblicato un annuncio che invitava i cattolici a lasciare la chiesa, ma aver al contempo negato un simile annuncio rivolto ai musulmani su richiesta di un gruppo musulmano. Ecco, il giornale ha pubblicato un annuncio della Freedom From Religion Foundation il 9 marzo scorso, in cui chiedeva ai cattolici: perché mandate i vostri figli alle scuole parrocchiali per farli indottrinare nella nuova generazione di donatori ed elettori obbedienti? Eppure, quando Pamela Geller, direttrice esecutiva di Stop Islamization of America, ha offerto la stessa cifra, che sono fra l'altro $39,000, vabbè, il New York Times ha una bella visibilità, in effetti, per un simile annuncio, insomma, il giornale si è rifiutato, senza spiegare i motivi, però non si capisce questo diverso comportamento nei confronti di due diverse religioni. Ecco. In effetti una spiegazione ci stava, diciamo così, no? Non so. E sempre la Freedom From Religion Foundation ha avuto qualche altro inghippo, perché in Pennsylvania la Camera ha preso proprio una risoluzione in cui ha dichiarato il 2012 anno della Bibbia. E naturalmente, che problema è che appunto questa è un'associazione che si batte per la laicità, sì, certo, e quindi, so bene. Naturalmente, ha qualche problema nel senso che si vuole opporre, ma anche Stop Islamization of America si oppone a una religione, solo all'Islam, sì, in questo no, caso. Tra l'altro abbiamo detto nelle scorse puntate che invece in Inghilterra c'è un candidato Livingstone, I presume. che sta per islamizzare l'Inghilterra, sì, sì. Fantastico. Comunque, passiamo al... Questo ci introduce al concorso esistenziale. Al concorso esistenziale, sì. Come al solito vi poniamo qualche domanda, scegliamo fra le più belle due candidati per poi dare un bel premio esistenziale, per così dire, alla fine del ciclo di domande. Sì. E dunque, la domanda di oggi viene introdotta da... Da un passo dell'Ecclesiaste, che è appunto uno dei libri miei preferiti dell'Antico Testamento. Questo è proprio l'inizio. Per celebrare proprio il fatto che è l'anno della Bibbia. Esatto, proprio per questo. È proprio l'inizio dell'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana, gira e rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno. Raggiunta la loro meta, i fiumi riprendono la loro marcia. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Ciò che è stato, sarà, e ciò che si è fatto, si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questa è una novità. Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno, si conserverà a memoria, presso coloro che verranno in seguito. Ecco, quindi questo era parte del primo capitolo dell'Ecclesiaste, la domanda quindi che voglio porvi, cari amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, per rispondere ricordate testacrocesshow@gmail.com o testacrocesshow il contatto Skype. La domanda è: qual è il senso della vita? Ecco, una domanda molto semplice, tranquilla. Vabbè, qual è il vostro senso della vita? Rubo un po' il lavoro a Bonolis, ma credo che tanto ce n'ha molto di lavoro, non ha problemi. Di sicuro non ha problemi. Credo che arrivati a questo punto con Testa Croce Show siamo preparati, no? Per affrontare domande di questa caratura. Sì, abbiamo fatto di peggio. E noi la giriamo direttamente a Stefano Alessi. Allora, qual è il tuo senso della vita? Il mio senso della vita. Allora, potrei... È dura, è una domanda. Allora, detta anche così, velocemente, a bruciapelo. Però fondamentalmente, non so, magari basandomi anche su quello che porto avanti io, quello in cui credo e sento, ovviamente rimanendo sempre quindi in argomento, riuscire a trovare magari in questa vita che ci viene proposta, frenetica, veloce, consumistica, riuscire a trovare magari quel nostro punto fermo dentro di noi, quel nostro punto di forza che ci permetta sia di stare con noi stessi che sapersi relazionare in maniera gentile, profonda con le altre persone. Quindi cercare di trovare quella che può essere la nostra armonia e portarla sia dentro di noi che poi manifestarla fuori. E magari con invece un mondo che corre in questo modo qua, che non ci permette di fermarci, ascoltarci e essere presenti a noi stessi, invece credo sia arduo come compito, uno dei sensi. Sì, sì. E le religioni, le spiritualità, no? I movimenti, le filosofie sono delle strategie, no? Proprio per cercare questo punto fermo. Sì. Va bene, ricordiamo anche che lo scorso ciclo di domande, lo scorso concorso è stato vinto da Paola Dalleverano, sì, esatto. E che riceverà una mappa di Shangri-La, esatto. E quindi non ci ascolterà più perché se ne andrà a Shangri-La. È possibile. E, dunque, torniamo appunto a parlare di Obod. Ecco, io lo farei dopo uno stacco, che dici? Oh? Dici di sì, allora mandiamo il pezzo che ci ha portato il nostro ospite. Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di portare un loro pezzo e di presentarlo, quindi prego. Allora, il pezzo che ho portato, il brano, è un brano tradizionale irlandese, suonato con arpa, suonato da uno dei più grandi interpreti irlandesi, Paul Dooley, grandissimo suonatore d'arpa con corde in bronzo, quindi molto difficile come tecnica, e ho avuto il piacere di fare un seminario con lui poche settimane fa all'Irlanda. Stefano Alessi è anche un musicista, no? Suona... Sì, ci si prova. Ma insomma non è facile l'arpa, insomma, no, è uno strumento bello tosto. È uno strumento tosto, molto bello, profondo, e l'esperienza con lui è stata molto forte. Soprattutto perché al corso eravamo solamente due persone, quindi è stata un testa a testa e sentirlo suonare è stato molto bello, e quindi vorrei anche che agli ascoltatori vostri si interessino magari o ecco, trovino piacere ad ascoltare. Questo pezzo si intitola, vuoi pronunciarlo tu perché è una parola un po'... È molto, molto lungo come titolo, sono dei brani tradizionali. Penso si possa pronunciare Strathspey, probabilmente. E beh, direi che ce ne andiamo a ascoltare, a questo punto torniamo dopo. Buon ascolto. Che meraviglia, davvero bellissimo. Questo sicuramente va nel senso che diceva Stefano, di trovare un'armonia proprio, anche sì, proprio sì, concilia l'armonia questo pezzo, davvero, secondo me, che ricordiamo è un live, fra l'altro è un live. Salutiamo anche Valentina De Novara, sì, che ci fa i complimenti anche all'ospite e sì, ci ha detto 20 puntate tutte belle. Grazie, grazie Valentina. Bene, torniamo a parlare di Obod. Sì. Dunque, ti avevo accennato una domanda prima, sì, che te la ripeto. Appunto, se puoi spiegarci la differenza fra le tre figure principali che fanno parte di quest'ordine, quindi Bardo, Ovate e Druido. Sì, allora, questa è la divisione storica che era presente nella casta dei druidi. La divisione si basa soprattutto sull'esperienza e sul tipo di addestramento che ogni persona riceveva in base alle proprie attitudini. Ora, brevemente cerchiamo, perché altrimenti è qui vasto come cosa. E i bardi fondamentalmente erano i custodi della tradizione, erano gli artisti, musicisti, poeti, coloro che erano ispirati, diciamo così, dal divino, dal mondo, e che riuscivano a trasporre questa ispirazione in forme d'arte, qualsiasi forma d'arte, quindi erano le persone in collegamento con il loro sé creativo, con il loro sé intimo. Il grado successivo era il grado dell'ovate. L'ovate era lo sciamano, era il divinatore, era il guaritore della comunità, mentre il druido spettava il, diciamo proprio, erano coloro i legislatori della società celtica, che avevano delle regole molto, diciamo un piano di legge veramente molto vasto e molto profondo, benché fossero chiamati barbari. E i druidi si accertavano che queste leggi fossero seguite, applicate, quindi svolgevano un po' la funzione, non so, degli avvocati nei tribunali o quant'altro, e poi erano ovviamente gli uomini di saggezza che addestravano e continuavano a portare avanti la tradizione e gestivano completamente le tribù e le varie realtà locali. Ecco, so che voi fate dei corsi anche per, sì, prepararvi a prendere questi ruoli. Ecco, sì, come funziona infatti, allora, diventare bardo all'interno, sì, dell'Obod. Allora, innanzitutto, gli addestramenti a livello storico, la trasmissione del druidismo è sempre stata per via orale. L'Obod, diciamo inglese, ha deciso di, per poter portare a maggior persone il druidismo e permettergli di praticarlo, cioè di avere le informazioni di base, i rudimenti di base, quindi sviluppare e crescersi, ha istituito questo corso che si divide appunto su tre gradi, bardo, ovate e druido. Un corso che avviene per corrispondenza, quindi una persona iscrivendosi e facendo richiesta di ricevere questo corso, mensilmente riceve dei fascicoli, degli opuscoli, diciamo, dei propri libretti, diciamo. Posta cartacea. Cartaceo, rilegato, sì, molto, in maniera molto anche bella, molto, visivamente, che oltre ad offrire, diciamo, delle informazioni a livello intellettuale, nozionistico, in realtà poi nasconde dentro di sé, diciamo, viene chiamato un corso esperienziale. Quindi in base ai diversi gradi che ci sono verranno proposti a colui che si appresta a seguire questo corso una serie di esercizi, attività che, se la persona, diciamo, è pronta a seguire in maniera molto genuina, con umiltà e pronta a mettersi in discussione, ha una notevole forza, perché comunque si basa su antichi insegnamenti che ci vengono appunto tramandati e portati avanti da generazioni e ci vengono offerti. Poi comunque si ha il contatto di una sorta di tutor, sì, mi dicevi, quindi che segue il percorso d'apprendimento. Sì, durante questo apprendimento nei vari gradi, se ovviamente, visto che siamo noi stessi con noi stessi a relazionarci, se nel caso vengono delle domande, dei dubbi o abbiamo bisogno, che è importante poi questa figura, perché nel momento in cui gli scriviamo ci mettiamo in discussione e facciamo una sorta di autoanalisi con noi stessi, c'è questa figura che invece ha completato tutti e tre i gradi ed è stato istruito per far questo, per guidare questa persona, per portare consiglio più che guidare, voglio dire, e appunto c'è questa possibilità di avere questa figura affiancata in tutti e tre i vari gradi. Noi in Italia, come ordine druidico italiano, stiamo traducendo questi corsi in lingua italiana per poterli offrire magari anche qui in Italia, li stiamo già portando. Cioè è già possibile. Allora, comunque, il corso bardico, che è il primo grado, è già presente da noi da più di un anno. E poi stiamo a breve, penso ora ad aprile uscirà il corso Vate, e poi fra un po' stiamo completando la traduzione invece di quello, ecco, per chi fosse interessato, sì. Sul sito si trovano, allora, tutte le tue informazioni sono presenti sul sito www.druidi.org, altrimenti su Google Obo d'Italia è arrivato al nostro sito, su Facebook altrimenti abbiamo la nostra pagina del Bosco dell'Awen, scritto AWEN, oppure sempre un'altra pagina nostra, Keltoi Radio, che è la radio del nostro ordine, in cui ci sono varie rubriche, varie attività. La radio con anche video, sì, quindi in streaming, tutte le sere siamo in onda con delle rubriche, con interviste a personaggi importanti sia in Italia che all'estero, e poi durante il giorno invece si può ascoltare sempre a diritto, diciamo, musica celtica, tradizionale. Stupendo, sempre. Direi. Sì, sì. Allora, torniamo a parlare dopo. Dopo un sacco musicale, sì. Bene. Allora, ci ascoltiamo una canzone recente del 2011 di Gautier, si pronuncia così, perché anche se è scritto in modo diverso, ricorda il nome Gaultier francese, è scritto Gautier però con la Y. E questo è dall'album Making Mirrors, Somebody That I Used to Know. Ce la andiamo ad ascoltare. Molto bello. Somebody That I Used To Know. Questi non erano Sting e Katy Perry, anche se un po' ci assomigliano. Ma ci assomiglia, sì. Invece erano Gautier e Kimbra, che è guest star di questa canzone, insomma. Molto bello. E siamo qui con Stefano Alessi e stiamo parlando appunto di Obod, Ordine dei Bardi, Ovati e Druidi. Allora, io volevo farti una domanda. Prego. Una volta che uno diventa bardo, no? E poi, sì, prosegue il suo percorso Ovate e Druido, qual è il suo ruolo? Poi ha dei ruoli organizzativi oppure no? Allora, se lo mettiamo da questo punto di vista, no. Nel senso, anche l'ultimo arrivato all'interno del nostro ordine, anche che non ha iniziato il corso, che ancora non ha fatto niente, può avere tranquillamente ruoli organizzativi, tranquillamente può proporre delle idee, proporre rubriche per la nostra radio, articoli per la nostra rivista, o proporre iniziative sul territorio. Quindi quello non è che in base a quanto più studi, quanto più vai avanti, tanto più guadagno puoi fare o non fare. Questa è assolutamente una cosa che non portiamo avanti e che non vogliamo assolutamente. Quindi non c'è una gerarchia? Assolutamente no. No, cioè c'è una gerarchia nel corso, però non è una gerarchia di autorità. È una gerarchia, sì, non è detto che chi è ovate è meglio di chi è bardo. Sì, è orizzontale, diciamo una struttura orizzontale. Si intersecano tra di loro e non è detto che chi inizia deve per forza arrivare in fondo. Cioè, se io fondamentalmente termino il mio addestramento bardico e decido di non continuare nel grado ovate, va benissimo così. Ognuno è libero di fare sentire quello che è la propria via, il proprio cammino, e non è che il druido è migliore o superiore gerarchicamente al bardo, assolutamente. Questo è no. Interessante. Sì, sì, però sì. Ci dicevi che ci sono delle figure comunque di riferimento, ad esempio per l'obod italiano. Sì, allora in Italia l'obod lo è stato portato da Agal, Renato Mancini e Isabella, che sono le due persone per noi di tutto il nostro ordine, diciamo le due persone di riferimento. In maniera scherzosa li chiamiamo capi, e se mi sentono di sicuro si arrabbiano perché non è così, però diciamo per noi sono i punti di riferimento, cioè per organizzare, per sapere, se per fare, anche se tendono molto a delegare a tutti, a lasciare molta libertà a tutti di esprimersi e di portare avanti la propria visione e la propria realtà. Sì. Bene, io senti, avevo una curiosità, ho visto sul sito questa, parlare di questa fiamma di Brigit di Kildare o Kildare, non sì. so come si pronuncia, e avevo curiosità di sapere di che si trattava, se ce ne vuoi parlare sì, brevemente. Brevemente, allora, sì, sì. Kildare è un luogo dell'Irlanda, era un luogo in cui sorgeva un tempio dedicato alla dea Brigit, che era la, diciamo, la dea emblema dell'Irlanda, oggi trasformata con Santa Brigida, dove c'è la sua cattedrale. Il culto di Brigit si basava su questa fiamma che veniva sempre tenuta accesa, non veniva mai spenta. Non mi ricordo ora le date precise, tempo fa tramite i gruppi pagani presenti in Irlanda è stata riaccesa questa fiamma, era presente un membro del nostro ordine, Briga, che, a cui è stata consegnata parte di questa fiamma e l'ha portata in Italia e la stiamo distribuendo. Quindi è sempre la stessa fiamma viva che si viene trasmessa. Che si trasmette e che se chi vuole può farne richiesta e le arriverà, verrà accesa una candela, ovviamente dalla candela matrice rispenta, e poi in questo modo da portare avanti. È un gesto simbolico, in quanto però molto, secondo me, molto bello. Molto bello, sì, e tra l'altro sì. ricorda un po' quel fuoco, no? che c'è anche nella tradizione vedica. Che veniva tenuto sempre acceso e serviva sì. e doveva essere portato poi per il rito, no? Veniva sì, portato sì. fuori tutte le volte che veniva fatto sì, il rito. Sì, sì, è vero, sì, è vero. Penso che sia comune anche forse a altre culture. Sì, una cosa... sì. Tutte le culture o le spiritualità legate alla terra o comunque legate molto allo sviluppo della persona, queste tematiche si ritrovano, credo. Sì, sì, poi certo. il fuoco no. è sacro un po'. Sì, beh, no, questo calore, sì, ma proprio anche il fatto di mantenerlo sempre sì. acceso. E hai menzionato una rivista, vogliamo dire due parole? Come Ordine Druidico Italiano abbiamo una nostra rivista, La Radura Sacra, a cui ovviamente al momento partecipano a scrivere i membri dell'ordine, si vengono affrontati tantissimi argomenti, dalla mitologia all'informazione alla descrizione dei viaggi di qualcuno, ogni membro fa un viaggio, ci racconta il suo resoconto, il suo diario, poi angoli di poesie, angoli di riflessione. Escono in prossimità delle quattro feste principali del calendario druidico e chi è interessato può trovare sempre informazioni sul nostro sito o richiederne a noi tranquillamente. Bene, direi di andare con l'ultimo pezzo e poi giornata. Torniamo per le segnalazioni di eventi. Sì. Allora, visto che è il compleanno di Terence Hill, ci ascoltiamo di un Buggy. Un classicone. Auguri a Terence. Bentornati in diretta. Dopo ascoltateci, questo... altrimenti ci arrabbiamo. Esatto. Questo brano che non può che rievocare i ricordi, no? A tutti quelli della nostra generazione. Sì, più o meno sì. Allora, siamo arrivati al momento delle segnalazioni. Siamo in chiusura, sì. Allora, intanto parto subito con una segnalazione che mi riguarda anche un po' da vicino. Vi ho detto la volta scorsa che è partito un'iniziativa Ascoltateli da Torino, organizzata dal Centro Sereno Regis per la non violenza, che chiede una riapertura del dialogo sulla questione TAB. Hanno richiesto un'adesione in tutte le regioni d'Italia e noi, come Toscana e in particolare come Livorno, aderiamo con l'iniziativa Ascoltate Livorno. Il sito è ascoltatelivorno.blogspot.com e l'indirizzo email è ascoltatelivorno@gmail.com. Di cosa si tratta? Praticamente ci sarà un digiuno collettivo a staffetta con turni da 24 ore in su. E saremo in diretta web streaming 24 ore su 24 all'indirizzo appunto che vi ho detto, tramite un flash player potete guardarci, e ci saranno dibattiti, interviste con ospiti. Partiamo questo sabato 31 marzo alle 18, ci sarà subito un intervento di Marco Cannito di Città Diversa, e poi andremo avanti così finché ce la facciamo, sicuramente fino al 3 aprile, ma possibilmente se ci si aggiungono forze nuove per il digiuno andremo avanti a oltranza per chiedere appunto questo dialogo sulla questione TAB. Benissimo, in bocca al lupo al gruppo di Ascoltate Livorno. Se ci sono interessati possono anche scriverci, no? Certo, certo. E... a testo corre show @gmail.com, sì, sì, e verranno rimandati a no. Sì, sì. Io volevo segnalarvi innanzitutto che il Festival di Ufologia di Orvieto, che era programmato per febbraio, è stato spostato al 21 e 22 aprile e poi vi daremo il programma appena sarà disponibile. E invece il convegno del CUN, Comitato Ufologico Nazionale, è fissato al 24 novembre di quest'anno a Roma. E poi a Livorno, martedì 3 aprile alle ore 21, all'ex Aurora, il 7° Caffè Laico, storia della laicità in Italia dall'unificazione ad oggi, relatrice e la coordinatrice del UAR Livorno, Lina Sturman. Stefano Alessi, tu hai qualche appuntamento da segnalare agli ascoltatori? Tantissimi. Ecco, allora, cercherò di essere sì, concentrato perché sì, sennò si fa. Mandiamoli a mitraglia, allora. Sì. Allora, diciamo, segnalo quelli più prossimi. A maggio noi facciamo il mese dell'Obod. Il mese dell'Obod è un mese in cui praticamente ogni fine settimana o anche intrasettimana organizziamo qualcosa. Allora, gli eventi più importanti sono, allora, venerdì 11 fino a domenica 13 viene in Italia il rappresentante, il capo dell'ordine inglese Philip Cargom con sua moglie in Italia per tenere un seminario su esperienziale sui tarocchi, non ovviamente per leggere il futuro, ma un seminario sui tarocchi come strumento di crescita ed evoluzione della persona. Poi durante il mese organizzeremo degli incontri in Italia del nord, al centro e al sud. Al centro me ne occuperò io, magari posso dire qualcosa, faremo organizzerò una passeggiata, una camminata insieme ad altri membri dell'ordine qui in Toscana sulle Alpi Apuane, visitando dei siti sacri e che sono ricchi di storia e di tradizioni nostre, proprio del nostro territorio, a cui questi eventi sono aperti a tutti, non solo a chi fa parte dell'ordine, anzi è un modo per conoscersi e per creare ponti e incontri. E diciamo, poi un altro evento importante, il 3 giugno ci sarà il compleanno della nostra radio di Kelto e Radio, e per poi terminare con il venerdì 8 fino a lunedì 11 con il viaggio che faremo in Inghilterra a Glastonbury e a Stonehenge per incontrare tutti gli Obodies del mondo che verranno per celebrare il solstizio d'estate tutti insieme. Questo è un appuntamento molto importante. Questo è molto importante e molto bello. Questo calendario si trova su www.druidry.it? Allora, questo lo troverete, sì, no, sul sito non so se è aggiornato di continuo, però sulla nostra pagina su Facebook Il Bosco dell'Auen troverete tutte le informazioni, o comunque scrivendoci faremo avere una copia. Perfetto. Sicuro. Vi aspettiamo. Benissimo. Bene, e ritorniamo rapidamente, scusate, una segnalazione veloce, sempre a Livorno, domani venerdì 30 marzo ci sarà una cena con una raccolta fondi per i ragazzi arrestati del movimento NOTAP, sarà l'ex caserma occupata di via Adriana 16, e questo fra l'altro è il luogo anche dove noi fisicamente saremo con la diretta web streaming, e quindi praticamente darà l'inizio, il suggello all'iniziativa che partirà il giorno dopo invece a nome Ascoltate Livorno, e quindi insomma è una bella occasione per andare, e partirà in realtà dalle 17:30 la giornata con una proiezione video dei dibattiti con un ospite del movimento NOTAB e la madre di uno dei ragazzi appunto arrestati del movimento. Bene, allora sì, direi di andare con i saluti. Ringraziamo Stefano Alessi, saluta come vuoi gli ascoltatori. Sì, allora, te la parola. Innanzitutto grazie a voi di averci concesso a nome di tutto l'ordine questo spazio per farci anche conoscere. Ringrazio poi i membri dell'ordine che mi hanno imposto fra virgolette di essere qua in questo momento, e ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato. Invito tutti i curiosi a contattarci o comunque a chiederci maggiori informazioni tranquillamente, e niente, ancora grazie a voi ragazzi per lo spazio e per la gentilezza, è tutto. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie a Fede che ha curato la regia di questa puntata. Dopo di noi c'è Jacopo Mascagni con la sua trasmissione Dietro l'angolo sulle band locali, e dopo Arena Top Again, programma di cinema, e si parlerà anche di Terence Hill. Sì, mi sembra giusto. Comunque, voi rispondete alla nostra domanda e alle prossime su testacrocioshow@gmail.com. Qual è il vostro senso della vita? Ricordiamo. E ci risentiamo giovedì prossimo. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti. horses if you try. Sky.